Allora, eccomi qua a registrare il mio primo podcast in assoluto. Sono anche davvero un po' emozionato perché è il primo e non solo perché è il primo, anche perché sto registrando con i mezzi che definire di fortuna è poco. E però ho deciso che era meglio partire piuttosto che aspettare la perfezione, anche perché altrimenti non sarei partito mai o molto più tardi. E allora mi sono detto partiamo, poi miglioreremo cammin facendo. Quindi ora brevemente cosa vorrei fare con questo mio podcast, cosa vorrei realizzare. Ecco, come dice anche il titolo del mio podcast, in esso vorrei parlare di questioni inerenti il nostro spirito. Io sono un prete cattolico e forse credo almeno. Mi sono informato un po' in giro, ho guardato un po' di qua e di là e credo di essere il primo prete che realizza un podcast in Italia. Ci sono altri, soprattutto negli Stati Uniti, ma in Italia credo di essere il primo. Poi, se non fossi il primo, la cosa non è che mi turbi perché non faccio certo le cose per essere il primo, però per dire, insomma, e per dire anche che mi piace questo mezzo, mi piace perché ho sempre avuto una passione per tutto ciò che riguarda i mezzi di comunicazione. L'ho avuta un tempo per esempio per la radio, ho avuto un grandissimo interesse per la radio a metà degli anni 70, quando nacquero le prime radio libere, poi l'ho avuta per il web ultimamente, una grande passione. Ora questo mezzo, il podcast, mi è sembrata una maniera opportuna per unire queste mie passioni, la prima della giovinezza e poi questa qua. E allora mi sono detto perché no, proviamo e eccomi qua perché sto provando. E, brevemente, di cosa vorrei parlare in questo podcast? Perché nei podcast appunto più che altro si parla. E vorrei parlare, ho buttato giù qualche idea, adesso la metto là così, però sono aperto, lo dico fin da ora, a suggerimenti, scambi di idee, opinioni e così via. Però due o tre cose di cui mi piacerebbe parlare. Una, per esempio, mi piacerebbe parlare dei libri, fare, per esempio, una rubrica di recensioni librarie. Parlare di libri che ho letto, di libri che magari non ho letto, ma di cui ho letto a mia volta, ho sentito parlare. E poi realizzare una rassegna stampa che parli sempre di temi inerenti, ovviamente, il mio podcast. Poi mi piacerebbe anche realizzare una rubrica che faccia una sorta di spiegazione del Vangelo. Poi vediamo se realizzarla quotidianamente o settimanalmente. Non ho ancora pensato a questo in maniera approfondita. Ecco, però l'idea è questa qui. E, per finire questa mia prima registrazione, mi piacerebbe leggere un numero, un punto del nuovissimo, è uscito poco più di un anno fa, del nuovissimo direttorio sulle comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana. È davvero è un bel documento tutto quanto. Poi ci sono dei punti in cui si parla proprio del web, è intitolato questo punto Le nuove frontiere della comunicazione. E il primo di questi punti dice proprio così. Mi è piaciuto molto e vorrei condividerlo con voi. Aperte virgolette. Nella trasformazione tecnologica in atto e nello scenario della rapida evoluzione che si registra nel campo informatico e della comunicazione, un posto di crescente rilevanza assumono internet e più ampiamente lo spazio virtuale. Internet è un po' radio, un po' televisione, un po' giornale, un po' posta espressa. È un ibrido da esplorare con attenzione e curiosità. I nuovi media sono strumenti da valutare e utilizzare con spirito critico al pari degli altri. Questo spazio virtuale costituisce un campo ampio, aperto, dai contorni ancora indistinti, impossibile da ridurre ad una sola componente. È votato ad interconnettere e mettere in relazione tra loro i dispositivi di produzione, di di registrazione, comunicazione e simulazione. Diverse forme di integrazione tra queste tecniche e i media tradizionali, telefono, cinema, televisione, libri, giornali, musei, sono già in atto. Gli sviluppi possibili sono straordinari. Ecco, qui finiva la citazione del direttorio della CEI e mi è sembrato davvero importante, soprattutto questa ultima frase finale: gli sviluppi possibili sono straordinari. Ecco, sono qui anche per questo, perché mi sembra che gli sviluppi futuri possibili siano straordinari, e soprattutto mi è sembrato straordinario questo strumento del podcast. Per questo lo sto registrando e per questo mi impegno anche a migliorare anche dal punto di vista davvero tecnico, perché ora davvero sono in condizioni poco più che pietose, forse anche meno che pietose, però apprezzate la buona volontà. Ci risentiremo, prometto, presto, e per intanto grazie a tutti gli eventuali ascoltatori, e ripeto, mi raccomando, fatemi avere dei suggerimenti, delle critiche, delle proposte, e mi impegno a registrarle, prenderne atto.